Buonasera a tutti. Come stai? Bene? Come state? Siete sotto la pioggia pure voi? Sì, ne è bevuta tanta a Padova. Ho sentito che a Milano è stata una specie di... Anche a Milano siamo zeppi inzuppati. Zeppi inzuppati, esattamente. Siamo come savoiarci nel Marsala. Ivan, sei un artista multimediale, perché praticamente fai il cantante, fai il pittore, hai lanciato artisti di punk, hai lanciato Anna Oxa. Sì, è vero, i tempi. Poi ho lanciato tante cantanti che poi ho cantato anche nel questo disco, Tante Basta, e sono cantanti che io ho lanciato. Esattamente. E adesso le canto le loro canzoni, come Diana Est o come Patrizia del Gruppo Italiano e tante altre. E all'Anna Oxa hai praticamente creato il look a Sanremo. Bisogna dire, saremo nel 78, il look punk. Esattamente. È stata una bellissima esperienza, erano altri tempi. E poi hai conosciuto Cat Stevens e Mark Bolan, due miti della mia generazione. Sì, bei tempi, quella è proprio la notte dei tempi, è stato bellissimo, ero un ragazzino a Londra. Dopo, allora, tu sei stato il primo a inventare il modo di riproporre dei pezzi famosi, le cover. Sì, il primo in assoluto. Il primo in assoluto, 400, quasi 500.000 copie, secondo te è un successo strepitoso, l'hai sì, detto anche proprio successo. Te. Sì, vero, è stato molto bello, e poi un esempio che poi è stato seguito qualche anno dopo anche dai vari Pooh, che hanno rifatto poi tra l'altro lo stesso Ragazzo di Strada. Esattamente, recentemente. Poi anche Mattia Bazzar, Battiato, Morgan, e in ultimo la Pausini con un grande album di successo, proprio quello Io Canto, e avevamo fatto un po' il verso al remake. Esattamente, cioè hai aperto una strada, molte strade musicalmente parlando, sicuramente hai inventato proprio un genere, c'è poco da fare. Ivan, cosa sì, dici? Sì, è stato clamoroso, decisamente. E perché adesso 80 e basta, Ivan? 80 e basta perché non ho voluto mettere dei pezzi miei inediti, perché c'è bene ne ho 400 via eccetera, però ho voluto fare una cosa tutta proprio di rigore sugli anni 80, sugli anni che mi appartengono poi, e quindi ho voluto giocare esclusivamente su quello, perché molti miei colleghi hanno la coda di paglia, magari mettono le canzoni di remake poi ci mettono dentro l'inedito, che non serve poi a nulla, perché la gente poi è attratta dalle canzoni chiaramente più conosciute. Quindi per gli inediti aspetterò quando sono pronto con le cose nuove. Certamente. Io, come primo pezzo, io ho scelto il pezzo di Nada, una Nada lontana da bellissimo. Sanremo, sdoganata da Sanremo, un pezzo che sì, già vero, cominciava una Nada diversa. Cosa dici? Una Nada, sì, è un pezzo della rinascita di Nada. Esattamente. Nada era già finita in quel periodo, e invece nell'83 mi ricordo anche lì una cosa che aveva toccato a me personalmente. Lei è venuta al Bandiera Gialla di Rimini, che ha inventato te assieme alla Caselli, bisogna dire ste robe. Io, poi c'era Vedroni eccetera, e partecipò a una trasmissione televisiva dove presentava per la prima volta, io facevo il presentatore lì, la presentai per la prima volta la sua rinascita, ed era Amore Disperato quella canzone, gli ho portato bene, diciamo. Decisamente sì. E come hai deciso di inventarla musicalmente? L'idea come è partita? L'idea è partita da una semplice proposta discografica. Il discografico, io non volevo farlo all'inizio, però poi il discografico mi ha detto: ma come, tu hai inventato tutte queste cose 30 anni fa, hai più diritto di vari Battiati, di varie cose, a fare questa cosa, e quindi l'abbiamo fatta. E l'avete fatta bene, secondo me. È una bella apertura, una bella finestra, si apre bene l'album con questo pezzo di Nada, secondo sì, me. Sì, è un pezzo solare, meraviglioso, cantabile, bello, un pezzo che non ha può accontentare tutti, mentre ci sono altri pezzi nell'album che sono già un po' più difficilini, tipo Rio de Janeiro, sì, che era una canzone nascosta, che però mio amico Nasser mi fece cantautore, grande cantautore, mi disse guarda che c'è questa canzone che è stata un po' sempre maltrattata, invece forse perché era un lato B di una canzone, e invece è una bossa nova proprio di Rio de Janeiro, che parla di Rio de Janeiro, similitudine fra Rio e Rimini, e quindi l'ho riascoltata e mi piaceva molto, ho detto facciamola. Ok, allora sentiamo il primo pezzo, questa canzone di Nada, riveduta e corretta dall'estro di Ivan Cattani. Ok. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra sassofono blu, ma si annoia appoggiata allo specchio, sempre fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo un po'. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo un po'. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. Tornando e tornando e tornando e tornando. E tornando e tornando e tornando e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà, scoprirà l'amore. Dopo quella volta lei lo perse di vista. Disperata lo aspetta ogni sera al sassofono blu. Una notte da lupi le stava piangendo. Quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno shock. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte. Lei ballerà tra le stelle accese. Scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore disperato. E torniamo in studio, Maurizio. Ci siamo, sì. È sempre al microfono, al telefono, più che al microfono. Ivan, ci sei? Eccomi qua. Perfetto. Ivan, tu hai detto, questo disco è un ritorno sul luogo del delitto, e anche se ormai il revival non mi interessa più, in questo lavoro mi sono molto divertito. Sarebbe bellissimo riuscire ad organizzare una serie di concerti con un sacco di ospiti, magari invitando a duettare con me sul palco i Righeira, Rettore, Sorrenti, e perché anche Gianna Nannini. Sarebbe un bel evento per una cosa live, sarebbe carina come cosa. Live sì, non lo vedo tanto come cosa da disco, ma come cosa live. Live la vedo molto bene. E come lo porterai avanti questo spettacolo live? Ma lo porterò un po' in tutta Italia in giro con il live. Siamo già partiti, tra l'altro oggi facevamo la presentazione alla Mondadori a Milano, in centro a Milano, e poi dopodomani ci sarà a Roma, la Fnac, e quindi saremo un po' in giro poi con la tournée per l'estate. Bellissimo. E hai inserito anche Figli delle Stelle, anche se giustamente tu hai scritto è del 1979, dell'80, però l'80 ha iniziato lui, l'80. Perché, esatto, probabilmente sì, segna proprio la spartiacque questa canzone, perché è del 79 e era Sorrenti che arrivava dalla Disco Music e faceva entrare praticamente negli anni 80 e segna proprio questi fine anni 70 e l'inizio degli anni 80 con il Figli delle Stelle. Esattamente, dobbiamo ricordare un'altra attività, tu non fai solamente il cantante, no, però ti interessi anche di pittura, sì, fai delle mostre. Faccio mostre, faccio spettacoli multimediali nei musei d'arte moderna, ho lavorato ultimamente anche con Luca Beatrice, che è quello che ha allestito l'organizzatore generale della Biennale di Venezia l'anno scorso. Certo. Quindi collaboro con tutti questi qua, certo, sono un po' sono lavori un po' più underground, meno popolari, quindi hanno meno riscontro a livello popolare, però insomma sono un mio grande amore. Certo, dobbiamo ricordare una cosa fondamentale, tu hai collaborato con Roberto Colombo, un musicista d'avanguardia all'epoca. Marito di, sì, adesso è il marito esattamente, di, sì, di Antonella De Mattia Bazzar e Antonella Ruggero, e lui era quello che ha lanciato un po', ha incominciato con me, poi ha lanciato anche il Bosè, Michele Bosé ha lavorato con i Mattia Bazar, ha lavorato con lui l'autore insieme alla PFM di tutti i concerti poi di De André. Certo, è verissimo questo. Abbiamo scelto il secondo pezzo, poi il terzo l'abbiamo scelto noi della redazione. Tu hai scelto un pezzo di Enrico Ruggeri. Perché un pezzo di Enrico Ruggeri? Non tanto perché di Enrico Ruggeri, ma perché di Ravera, che poi è un artista che io stimo molto, ma è un pezzo di Diana Es, che sì, è una ballerina, Mr. Fantasy. E quindi... Ecco, Mr. Fantasy è importante perché hai collaborato a Mr. Fantasy, la trasmissione multimediale più importante della Rai praticamente. Esatto, la prima in assoluto. La prima in assoluto, per cui venivano presentati per la prima volta i famosi videoclip che oggi sono impervadono ovunque, insomma. E è stata la prima volta che veniva fatto un esperimento sui videoclip, sui primi artisti che facevano dei video, e ha avuto molto successo. Esattamente, la collaborazione tua con Carlo Massarini è stata notevolissima. Esatto, è diventata proprio una trasmissione cult, non a caso che quest'anno è stata riproposta sul RaiSat come trasmissione proprio di culto. Esattamente. Allora, sentiamo questo pezzo, Iva, e poi ne parliamo ancora, ok? Va bene. Estetica, un inconscio fragile, la finzione scenica, psicanalizzate me, una nuova immagine per un sogno complice, non è più credibile la normalità. Forse già mattino e non lo so, un mondo latino inventerò, tena, tena, tena, sex modus e nectus morbus ses, e calma in vita immoderata piques, e tena, tena, tena, i capelli segni statici ed un trucco energico da guardare subito. Vale la pena vivere solo dalle 11. Posso solo ridere nell'oscurità. Come già mattino e non lo so, un mondo latino inventerò. Tena, tena, tena, tena, set modo se nettus morbus est, calma e vita in moderate chiquet, e tena, tena, tena. Tenax, Maurizio. Fabrizio, cosa pensi di questo pezzo di Ivan? Ha fatto scatenare tutti quanti qua in studio, chiaramente. Guarda, veramente una bella rivisitazione, non c'è che dire, Grazie, grazie, fa piacere che ti piaccia. Decisamente. Bene, andiamo avanti. Allora, leggendo nella tua biografia, ho letto una cosa molto interessante. Hai collaborato con Roberto Cacciapalia. Esatto, sì, che poi tra l'altro, guarda caso, è stato quello che dopo aver fatto Bandiera Gialla con me ha lavorato subito con la Nannini e ha fatto il disco America. Esattamente, America. Grandissimo artista Roberto Cacciapalli. È un grandissimo artista che Roberto Cacciapalli, un artista indie, sì, se mi è consentita l'espressione. Molto bravo, adesso sta avendo un successo da solo, tra l'altro come pianista sulle onde sulle orme anche di vari con le orme Einaudi, sì. Levi, lui ha più diritto perché ha incominciato molto prima. È vero, ha cominciato molto prima. Anche Battiato, esattamente, io ricordo un disco con Battiato molti, molti anni fa. Esatto, sì, se lo merita, molto bravo Roberto. Allora, il discorso della Gianna Nannini, hai scelto Maschi, come mai hai scelto questo pezzo della Nannini? Cioè, musicalmente, come l'hai creato, come l'hai già sviluppato? Cantato da lei era molto ambiguo, cioè, cantato da me diventa ancora più ambiguo. Esattamente. È proprio una dedica ai Maschi, quindi è molto provocatorio. E musicalmente come l'hai ristrutturato? Ma non abbiamo fatto delle grandi cambiamenti, perché I Maschi è una canzone molto folk, è una ballata, non permetteva molti cambiamenti rispetto invece a Tenax o a Figli delle Stelle, quindi siamo dovuti rimanere abbastanza nel limite, sono cambiate le sonorità, però poi il resto è rimasto. Quindi aderenti un po' all'originale. Sì, beh, senz'altro. Poi io sono del parere che i revival vanno rispettati, non si possono sconvolgere troppo, altrimenti si rovina tutto. E Iva, gli arrangiamenti, la produzione del disco? È fatto da questo ragazzo di Verona che si chiama Roberto Cesoli, molto bravo, è un arrangiatore pianista e che ha lavorato molto bene su questi arrangiamenti. Benissimo, i musicisti te li ricordi qualcuno oppure no? Oddio, i nomi adesso non me li ricordo tutti, comunque sono tutto l'area di Verona comunque. Ah, perfetto. Sì. Perfetto. È un disco veneto, sì. Discografica veneta, quindi un disco veneto. E ringraziamo anche David Bonato che ha collaborato. Certo, grande David che ha collaborato e che grazie a lui stasera sei al microfono della nostra radio. Veramente, sì. Ok, allora un altro pezzo, abbiamo scelto appunto I Maschi della Nannini, rivisitato da Iva Cattani. E tu, con l'espressione malinconica e quel sorriso in più, cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, io non ti ascolto mai. I maschi disegnati sui metrò confondono le linee di Miro, dalle vetrine dentro ai bistro, ogni carezza della notte quasi a voi. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox, ogni carezza è quasi amore. Tu sotto la giacca cosa avrai di più? Quando fa sera il mio cuore si scatena, mi va sulle scale, poi te lo darò quello che sento. Parlami ancora un po'. I maschi innamorati dentro ai bar, ai maschi innamorati come me, dai maschi ancora I'm Grintosa questa versione, Maurizio? Decisamente. Non c'è che dire, eh? Ivan, ci sei? Sì, eccomi qua. Sì, abbiamo detto che è una versione molto grintosa, Ivan, molto... Grazie. Con molto pathos, ci trascini praticamente. Speriamo che vi accompagni durante tutta l'estate. Decisamente. Bene, ho letto, fai la prossima data la fai il 16 maggio a Roma, un'altra presentazione ufficiale, poi vero Ivan? Sarò a Verona, tra l'altro. Ah, Verona. Il 20 maggio al K9. Benissimo. Quindi hai deciso di 80 e basta, anche il titolo proprio così, 80 e basta, nessun'altra parola. Niente, 80 e basta perché doveva essere proprio un escurso sugli anni 80 e basta. Esattamente. Senza mettere cose di mezzo, eccetera, come ho detto prima, appunto, senza mettere inediti o cose così. Quindi cover, assolutamente cover, rivedute e corrette da te e basta, chiaramente. Mi senti? Sento. Perfetto. Adesso abbiamo quasi finito l'intervista. Benissimo. Però voglio salutarvi. Sì, allora. Esattamente, voglio che tu salga un pezzo, però. Certo, un pezzo per il di commiato. È il pezzo di commiato, sì, esatto. Giro delle stelle, perché è un pezzo che mi sta molto a cuore. Benissimo, un Ala Sorrenti riveduto e corretto da Iva Cattaneo. Grazie, sì. Iva. Grazie a tutti, un abbraccio grossissimo. Grazie. Grazie, ti aspetto qua da noi a Padova, chiaramente. Sì, va bene. Grazie, Iva. Un abbraccio, ciao. Ciao.